attenzione, Antonello, Antonello. Va bene, va bene, va bene. E tu come mi ascolti adesso, oh Claudio? piazzato quella cosa là, com'è il segnale? Cos'è piazzato l'antenna? Abbiamo piazzato la Ringo, hai capito? Come sta arrivando come segnale? Meglio dell'altra, no? Aspetta che te la lavoro, cambio radio, metto quella del Kingwood. Allora, aspetta un secondo, manda a vedere, aspetta, manda a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, cos'è che hai cambiato praticamente? Antenna. L'antenna. Allora, hai cambiato l'antenna. Aspetta, adesso. Ottimo lavoro. Allora, Antonello, lascia stare così. so fare così, già va bene. Anche la te, oh, Giuseppe, è vero, lo lascio stare così. Sì, lascia tutto così qua, va bene, tu, ma sarebbero 9:10 Radio 5 qua. Va bene che va bene, non ci stanno problemi, date un secondo di piano, lo prendi tu Antonetto, ti metto un po' a posto qua, che ci avevo fini mezzo ai piedi, che ho recuperato una batteria da 9 volts, l'abbiamo messo. M300, nuovo, entro la busta, se mi ero anche dimenticato che ce l'avevo. Figurati. Ah, comunque stai facendo benissimo, cioè, perfetto. Ok, aspetta che ti do un controllo con l'altro, Giuseppe. Passo col tempo un secondo, aspetta che sta col tempo, quell'altro è andata con l'altro. Ehi, yeah, non c'è problema. Uno, due, tre, allora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non dici, sto mettendo, sì. Va bene, già va bene. Ricordati quella cosa là, Tonè, di cambiare quello spinotto a 4, capito? Perché poi vedo un po' se funziona quel microfono, hai capito? Non ti preoccupare per quello, già me lo mangio io. Me lo mangio io per quello. Su qua, me lo di preparazione, senti una preparazione. Aspetta, che devo volgere più 3 con l'altro come va qua. Avanti Becco, chi è che chiama? Avanti. Che Becco, avanti Becco. Bene va questo microfono. Prova. Per vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una bomba, età. Sembra che c'hai un coso, un più 4 di uso, proprio, sta facendo chiaro chiaro. Infatti questo è l'MB più 4, non è il Tane più 3, questo è l'MB più 4 con l'Alan 48, MB più 4 senza essere toccato e ce l'ho a metà, eh. Attenzione che ce l'ho a metà, adesso lo sollevo, ora, ora, ora, adesso ce l'ho a 7. Va benissimo, c'è una bella amplificazione, turbo sembra. Oh, hai detto che mongo i buffi, tu mi ci buttendo a me, cazzo, la parte te ne vai, eh? Sto dicendo se ce l'ho bene, mettiti le cuffie, vedrai come ti insotti. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sciogliate nella modulazione. E cos'è? Minchia, cazzo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, eia! Vai che ce n'è, vai che ce n'è, Claudietto, che sei numero uno, lo sai. Adesso cosa riesco ad abbinare, cazzo, cosa riesco ad abbinare? Questo non è MB più 4 mai toccato, mai toccato alla grande, vabbè, se sentite il rumore sono in cuffie, mai toccato proprio, eh. Appa, vabbè, lo sai che queste qua, questi microfoni così, della ZC, MP5, MP4, l'altro, vanno sempre bene, hai capito? Hey Sugar, per carità di Dio, ma roba da matti, veramente, va. Allora mettiamolo così, guarda, lo mettiamo, finale incroci, mi metto a 7, a 6, a qua, a 5, a 6, a 7. Così bene va, sì ce l'ho, bene va. Cappa, c'è una bomba qua, 9, 9, 10, radio 5, a volte picchi 15, dai. Vabbè, ma guarda, posso salire, va, opa. Adesso sto andando con 120 watt, è salito il segnale. 9, 9, 35, radio 5. Questa bomba che ho MB più 4 non l'ho toccato, Antonè, non c'ha modifica, non c'ha niente, proprio zero, zero di zero, MB più 4 con l'Alan 48, proprio non l'avevo mai provato, a te lo vuoi immaginare? Io so che c'è bene, qualsiasi microfono c'è bene con l'Alan 48, 68, FM500S, Intec 340, qualsiasi microfono puoi attaccare. a che ora tu riesci. No, perché i discorsi che facciamo sempre, non bisogna cambiare la capsula, bisogna fare quello, bisogna fare quell'altro. E non se mi va, con un microfono del genere, a 4 lire, cazzo, boh. È veramente allucinante. No, l'ho attaccato per provare l'M300, però ho detto che attacco l'MB+4 a vedere. Minchia, ragazzi, veramente bella modulazione, ottimo per la truppa. senza nessun problema, alla grande, veramente alla grande. Con la speranza che io ti riconosca, non ti ho riconosciuto, sto provando il baracchino e quindi non ti ho riconosciuto. Buonasera a te, buona domenica, che sei, cambio. Luigi Vulcano. Bassa potenza alla grande. Alla grande, ti ascolto Jim, ma della modulazione non ti avevo capito, vedi tu, ciao, buona domenica anche a te. Non stavo provando un MB+4, di chi si proprio da 4 lire, colore 48 tutto chiuso, lui, ma non che radio. Più i toni alti. Non lo so, non è proprio un altro apparato, no? Ma mi pare Gigi, Vulcano, lo sento come cosa in lontananza, capito? Cioè, come hai detto tu, i tuoni un po' come hai detto tu, hai capito? Ma non è che dovrei avvicinarmi di più, non ero troppo lontano prima, guarda un po', adesso mi sono avvicinato un po'. No, è proprio questione di tonalità, Gigi, è proprio questione di tonalità. Invece questo qua come va con le mattoncine? adesso perché diciamo che la modulazione tua si abbina bene, capito? Si abbina bene, lo fa girare bene, è la tonalità della voce tua che si abbina, capito? Aspetta che non ce l'avevo le cuffie, dai. Questo qua è il SEAS, quello SSB50 che praticamente mi hai cambiato il connettore, l'hai messo a 4, capito? E sto usando l'M300, vai. Mi sembra che vada meglio dell'altro anche, così è. È positivo, Claudio, però dovresti, cioè come c'è una bella tonalità di voce, un pelino, qualche prova a passare una tacchettina all'eco, ma di un pelo, passalo leggermente un pelo, vedere cosa cambia. Allora, lo abbasso mentre sto parlando, eccolo qua, ora. Ecco, l'ho abbassato leggermente, vai. Secondo me va meglio così, no? Sì, va meglio così perché non c'è troppo eco. Così va meglio perché la voce è perfetta. Hai auditivo, vai. Da te com'è, Giuseppe? Va bene così? A me vai bene così, Hai auditivo, vai. Quindi c'è solo un reverbero e basta, o Gigi? L'ho abbassato totalmente, quasi al vero, ce l'ho un palmo neanche dalla doppia, così va bene. Va bene, Claudio, che ho cambiato il radio nuovamente, dai, va benissimo. Hai obiettivo, vai. Lo posso anche abbassare un pelino ancora, ecco qua, ecco così ho abbassato... Praticamente sono il reverbero, vai. Va bene così, allora, cambio. Antonello. Dimmi. Guarda che l'ho trovato con lo spinotto a 4 per quella prolunga, per questo microfono della ZC. Vabbè, non c'è problema per quello. Sto cercando di farti quel microfono e ce la faccio. Sto studiando per come fatelo. Ecco, un secondo. Tappa, avanti cra. Giuseppe, anche la terra va bene così, allora con SEAS SSB50, con l'M300. Tappa, super bomba, sì Claudio, super bomba. Lo sai che è una torre di controllo, cazzo, non bisogna mai controllare, come si dice, contraddire. Vabbè, quando si esce male bisogna dirlo, Giuseppe, è più seria la cosa, capito? Ma qua stiamo facendo degli ordinamenti, l'M300, io ho le connessioni su tutte le radio, e secondo me va meglio qua sull'SSB50 che sulla RAM 48, non lo so, vabbè. Gigi, ultima la tua modulazione, non ci stanno problemi, capito? È positivo, hanno cambiato tutto adesso. Ho messo il microfono normale su questo apparato qua e l'altro ho lasciato quello che c'è con 4 watt con tutto il mic gain chiuso, ho messo la radio l'altro microfono, questo è col microfono normale, dai, questo va bene così con questo microfono. Ecco. E questo non ce n'è, questo non ce n'è, va bene, registrato il break, questo non ce n'è, lui. Va bene così, alla grande, senza nessun problema. Avanti Brecco. Sì. Avanti Brecco. Tappa, mi sentite, mi ascoltate da questa parte, Antonio Grotte. Antonio Grotte, ma mi pare c'è anche un altro, buonasera. Mi pare che insieme a te c'è anche un altro che stava modulando, che è entrato, avete fatto il break in due. Scusa un attimino, Antonio, avanti, chi è l'altro che stava entrando? A Luigi Mauro da questa parte. No, vabbè, mi sembrava che c'era anche la voce di Mauro. Ciao Mauro, anche a te. Avanti Antonio Grotte per gli amici che ci sono, c'è Pomponio, Claudio, è entrato Mauro. perché vuoi, Antonio. Claudio, ciao Gigi, ben sentito e ben ascoltato, mi si suol dire. Anche a Claudio, che lo sento con una modulazione diversa, non so per quale motivo, una radio diversa. Componio poi Giuseppe, ormai ha costruito una stazione che spacca il culo al tordo. E ben sentito anche a Mauro per la primiera, perché non mi sembra aver mai modulato con lui, e lo rilancio quindi. Avanti Mauro. Ciao, ben sentito. Insomma, già vedo un pochettino, non da adesso, da un po'. Negativo, per la primiera, per quanto riguarda me, perché non credo di aver modulato con te altre volte. Avanti Claudio. Buonasera Antonio Grover, ben ascoltato. Sì, sto usando un M300 col baracchino, quindi un microfono con l'eco, ma M300 che non è che ce ne siano molti in circolazione, e quindi giusto così un reverbero leggero col baracchinetto. Ciao Mauro, ben ascoltato, buongiorno. Avanti. Ciao Mauro, buonasera. Comunque, come ti state vanno lì alle punti, Mauro? Insomma 9, però mi gioca bene, 5. E vabbè, ok. Riprendi tu Alessio, Componio. Aspetta, sto cercando di costruire il microfono. Gappa, avanti Claudio. D'accordo. Va bene, perché non mi ascolti o Antonio? A dirti la verità, allora, un giro di considerazioni gratuite che non mi sono state chieste. Mauro lo sento un attimino saturo, mentre invece a te ti sento, cioè non è la tua modulazione, arrivi bene, però ti cancella tutto il ruggente dei gravi che di solito con l'MC60 riesci a ottenere, e anche con l'altro microfono. Questo ti fa scomparire troppo i gravi, o meglio, quel grave ruggente che ti contraddistingue, che con questo è strano. Lo so. Questo microfono per combattimento se lo sollevo, ma per non dare molto combattimento lo teniamo così basso, e quindi ottiene un leggero reverbero, come più o meno insomma sentiamo di solito il Gianni dopo Roma, tutto qua. Va bene, è un M300 della Intec, che non è che se ne trovano molti circolazioni, chi ce la se la tiene, e quindi io ce la vedo. Allora l'ho collegato qua al Sears SSB50. Va bene, Gigi, per te il mic cambio. Positivo, sta iniziando a piovere qua, sta iniziando a piovere, sembrava una bella giornata oggi, però in questo momento qua Ottava sta piovendo, non molto ma sta piovigginando, l'ha detto. Niente, io tanto penso che ti stia arrivando, perché il negozio è chiuso, il bar è chiuso e tutti stanno andando, capisci? 9.30 Radio 5, ma questa è la tua modulazione, capito? La modulazione Vulcano è tua, è quella di sempre, al solito quando metti qualche biscottino in caldaia, capito? No, questo è l'8001, capisci? Il baracchino omologato, questo 8001, immaginati, costa quanto? 140, costa quasi 440 nuovo. Mi vale tutti, eh. Oh, questo invece è l'MV4 con l'ARAN 48, eh. Com'è questa modulazione? Pretende essere già la tua. Se gli dai un po' più di ambiente, amplificazione, sei tu. E c'è l'amplificazione qua, te ne tolgo le orecchie. Oh, ora. Questo è un MV4 che non è stato mai toccato, praticamente vergine, solo collegato all'ARAN 48 senza neanche cambiare le connessioni, senza fare niente, senza mettere spugne e senza cambiare niente, vergine. Adesso sei tu. Perché questo è il guy, va bene. Ok, ARAN 48 originale con MB+4 di tavola. Il problema dei microfoni, tu mi insegni, che hanno delle capsule riescono a tirare dentro una certa frequenza. Se uno ha una gamma di una voce particolare, o cerca di adeguare il microfono alla sua voce, o viceversa, se ha una voce tale che riesce con tutti i microfoni a entrare nella gamma di frequenza della capsula stessa, non ha bisogno di modificarli, e questo è il tuo caso. Però chi lo modifica perché vuole ottenere una modulazione migliore di quella che riesce a ottenere senza modificarlo, perché non ce l'ha più, capito? Si conferma, infatti questo non è da modificare perché ce n'è anche per i maiali. Vero Gigino Volcano? Positivo, dai, io modifico la voce mia, tu. Io la modifica la faccio, cambio la voce, capito? Cambio la tonalità della voce senza cambiare niente, senza cambiare la capsula. E già lo so che hai fatto innamorare anche qualcuno. Positivo è caparroggio, dai. No, non la cambio veramente, se tu quando mi capita che modulo sul 45 faccio un altro tipo di voce, di tonalità, capito? C'è stato qualcuno che mi conosce bene, una mattina stavo andando a Cagliari parlando sul 45 propagazione, era convinto che fosse non so chi, un napoletano, non si è reso conto, eravamo uno dietro l'altro, non si è reso conto che ero io che parlavo, lui era in ascolto, questo napoletano, e non era convinto che ero io, capito? Non si era convinto che ero io. Perdonatemi se riprendo, poi riprendo tanto. Io vi saluto, vado a farmi il riposino e ci sentiamo stasera, se coincide, altrimenti alle prossimine a tutti, buon fine domenica. Ciao Antonio, ciao Luigi, ciao Giuseppe, ciao Antonello e chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10. Buona giornata a tutti e buon proseguo, avanti Antonio. Buon mini 144 e ci sentiamo alle prossime se coincide, dai. Avanti Gigi per i saluti. Ciao Claudia, dai, ce la ascoltiamo più tardi, dai. No, c'è anche Mauro sempre, ricordiamolo che c'è sta anche Mauro, vai Mauro, per Claudio. Ciao Claudio, ci sentiamo un altro momento, dai. Ciao, buon riposino. Ciao Mauro, scusa, che mi ero dimenticato. Ciao amore, saluti a casa, ci sentiamo stasera se coincide. Ciao a tutti e buon fine serata, buona domenica. Riprendi tu Antonio e fai girare. Claudio, volevo chiedere una cosa prima di dire i saluti per Leoncino. Mauro, tu lavori in barra pesante? Esattamente. Claudio, no, allora ti ho visto qualche volta, avevo visto la scritta. Avanti Leoncino, dai, per i saluti per Claudio. Ciao Claudio, buon mini 144, qual è? E io ce la risentiamo stanotte, se coincide, dai. Avanti Pomponio. No. Avanti Pomponio. No, ci sentiamo questa sera. Avanti Breakers. Buonasera a tutti, dai. Ciao Gianni, l'hai ascoltato? Gianni, aspetta, non te ne andare un secondo che ti faccio sentire l'M300 con l'Aran 48, se ti piace. Che ho già sentito Claudio, l'ascolto. Va bene, è bellissimo, però come ti ho già detto, togli la tua aggressività, nel senso che ti fa una voce più lieve, dai. Non è aggressivo come l'MC60. Vabbè, non fa niente, l'M300 è così. Non mi ricordavo che ce l'avevo e l'ho collegato all'Aran 48, adesso sto andando con le, cioè al SSB 50, adesso sto andando con le BB più 4 e l'Aran 48 e spero che vada bene, dai. Ti saluto anche a te, buon proseguo di queste ore, ci sentiamo stasera se coincide, ciao. Ciao ciao Claudio, ci sentiamo, dai, ciao anche tutti gli altri amici, avanti, Gigi Vulcano, scusate se l'ho preso io e non Gigi, ma vi rendete conto adesso il danno che ha fatto Fabrizio Chirigatto? Ha fatto perché Fabrizio? Ha fatto un bellissimo regalo a Leoncino e adesso cioè, ce lo dobbiamo sopportare così, bello, potente e squillante, capito? Caparroccio. Caparroccio, ciao Gianni Doppio. Una cosa invece volevo chiedere, volevo sapere come è andato l'esame di Fabrizio, perché dovrebbe averlo fatto questa settimana, perché poi ero oscuro di tutto, ero fuori dal giro, dai, e non so niente come è andato. che 18, 18 su 18. Cavolo, 18 su 18, e come mai? Ma tutte anche dalle, quelle che sono andate dagli altri paesi, altre città, di Cagliari, di altre cose, tutti bocciati. Oggi stai, sei al limite dell'innesco, abbassa leggermente, poco a poco. Sono tutti stati bocciati, esattamente. Per assurdo, poi quello che è andato meglio è stato proprio Fabrizio, perché ha sbagliato solamente la parte per quanto riguarda le leggi e queste cose qua. E... però per il resto, per la tecnica, credo che abbia sia arrivato a 18, e poi siccome ogni risposta sbagliata è un quarto di punto in meno, ha sbagliato delle risposte e quindi ha iniziato a scendere, capito? Però lui era già passato, se si fosse fermato al 18 sarebbe passato. No, anche Roberto Quadrato purtroppo hanno bocciato, che aveva studiato parecchio. Positivo, dai. Positivo, aspetta, aspetta, questa corsa. Questo va meglio, va meglio così. No, così sei sottoterra lì. Va bene, siamo così da questo, però ho un altro apparato, dai, un altro apparato questo. E comunque, secondo me, vabbè. È un po' esagerata la cosa, che in due anni ne siano passati davvero, si possono contare sulle punte delle dita di una mano, stanno esagerando davvero, comunque, sarà, ma... È positivo, perché non va bene questo non va bene questo apparato, non si può provare. No, si è abbassato di radio e di segnale, di segnale. Sì, normale, liscia, ti stai portando dietro proprio perché non hai potenza, un po' di QRM. Comunque, rilancio a Mauro che ti dirà. Avanti, Mauro. Così meglio va, che ho abbassato un pochettino, se mi copri meglio adesso. Assolutamente sì, guarda, puoi alzare ancora di un filo, perché prima eri davvero, stavi saturando, adesso sei liscio liscio, puoi aumentare un pochettino. Se va bene. Sì, facciamo così va benissimo. E come è andata ieri? È andata che alla fine si è sfilata l'elica del mio aereo e niente. Me l'hanno fatta atterrare e adesso bisogna sistemarla bene. Avete provato purtroppo? Sì, l'hanno provato uno dopo un altro, me lo stava facendo vedere come andava. È andato a dargli un po' più di motore e mi ha detto ma si è scaricata la macchina, ho detto penso di no, detto perché l'ho appena caricata. Quando i professori bocciano vuol dire che il candidato o lo studente non è idoneo. Però non c'era più l'edica. È stato un intervento, ma comunque è interessante che si possa riparare. Si compra l'elica e si mette, una però gioca un pochettino l'elica e si mette un po' di bicomponente, la metto dentro e così non si stacca. Ma perché? Cosa hai l'elicottero, Mauro? Un Ariante, dai. A capo, anch'io, ma fai parte del gruppo di Sassari, del... come si chiama? Quello di quel tipo che ha il negozio di Fois. Sì. No, sto andando e voglio imparare, soltanto che è riuscita l'elica e quindi buonanotte, non si è potuto fare più nulla. Ma c'è ancora Secchi, se non sbaglio. Secchi? Secchi quindi anche nonno. Scappa Roger, c'è sia lui che quello che ha il coso del Pony Express, dopodiché c'è quel ragazzo lì lo stesso che è Sergio Fois, quello che c'è il negozio lì di aeromodellismo, e poi se non sbaglio ci dovrebbe essere anche Giuseppe Verdi, se non so se lo conosci. Li conosciuti tutti, ci sto andando, devo imparare piano piano perché non è facile, bisogna insomma guardare, vedere come funziona e seguire i consigli che ti danno. Sì, no, perdonami, io, scusate gli amici se un attimino stiamo monopolizzando, io ho evitato di iscrivermi perché allora sei iscritto al campo di volo lì, nuovo, quello che c'è vicino sulla strada di Alghero. Ho evitato di iscrivermi perché quando l'avevano aperto facevano pagare 250 euro di iscrizione annuale, pannuzza. Ah, vabbè, lo so che chi c'è un milione stanno pagando intorno ai 320 euro, 330 euro, però nel momento ho detto io se vengo, io tutta la testa così non ve la pago assolutamente, perché vi pago la limite alla metà. Dopo una volta che io ho imparato che so usare, allora è giusto che pago anch'io la quota con gli altri. Sì, ma sono fuori di testa, ma ti rendi conto, 320 euro, cioè paghi la tessera delle quercemi, 320 euro è pagosa per volare su un campo in erbetta, poi vabbè, ma non lo so, secondo me è assurdo il prezzo, non ci sto. Lì c'è in mezzo anche l'assicurazione, perché se succede qualcosa, come ieri uno ha lasciato l'aereo dove è andato verso le persone, ti arriva e ti fa male, anche se il bambino, che perché a qualcuno non gli fa male davvero, deve invece rispondere l'assicurazione, però lo fatti tu. No Mauro, però hai ragione, l'assicurazione non so quanto costa, la puoi fare in qualsiasi assicurazione e ti costa una miseria, mi sembra che costi 17 euro, 20 euro, assolutamente costa pochissimo, quindi non ti fare infinocchiare su queste cose, io non ci sono più andato per questo motivo, perché era troppo esosa la cosa, assolutamente. Comunque rilanciamo un attimino per Gianni che stiamo monopolizzando, avanti Gianni. Il posto diciamo riparato, cosa, se vuoi fare qualche lavoretta aerea c'è il posto per farlo e tutto ti fanno pagare, però devo pagare anche l'affittore, quello è che lui dovrebbe essere un affitto pesante a pagare. Ma no, ti dico la verità, loro stanno cercando di recuperare la progettazione e la realizzazione di quel campo, perché gli è uscito un bel zocco. Per quanto riguarda le strutture, poi da poco fra l'altro era passata una tromba d'aria e gli aveva cartocciato tutta quella struttura, tutta quella copertura che c'è. Io l'avevo vista in embrione questa cosa perché è nato tre o quattro anni fa la costruzione di questo campo, però l'hanno voluto trasformare subito come una cosa di elite invece di far sì che si potessero avvicinare i ragazzini, sai, adesso comprare un elicottero o un aereo non è più come prima, costa davvero molto poco, io ne ho uno in scatola ready to fly, vuol dire pronto al volo, e ho pagato quelli con motore a scoppio 100 euro senza il motore, ma ti ripeto, adesso con 250 euro c'è la possibilità che tu sei pronto a volare anche con un aereo di un certo tipo. Però se a questi 250 euro ci metti anche la tassa annuale di 320, ma che chi vuole che ci venga? Cioè è assurdo. E diciamo che è uno sport per gente che ha infatti tanto è vero che tanta gente che ha dei voti, eccetera, eccetera. Mauro, tu immaginati, lo sai che quello, il tipo del Pony Express, se non mi ricordo, vabbè, non meglio non fare nomi, comunque durante una manifestazione lui aveva un elicottero del 118 degli anni 60, tu dovevi vedere com'era questo elicottero, bellissimo, forse anni 60 nel senso non è anacronistico perché non so se esistesse il 118, allora comunque lì soccorso, bellissimo, sarà stato con una lunghezza di 1,80 m. E tu immaginati che si muova anche il rumore che faceva proprio l'elicottero vero e proprio. Minchia, in un raduno a Macomer ha sbagliato manovra, ha mollato perché si è spaventato, perché l'elicottero si stava scomponendo, allora ha mollato la manetta di colpo, ha rimbalzato in terra, le palle gli hanno spaccato completamente il traliccio e si è fatta 100 un pezzo. 3.000 euro distrutti nel giro di 2 secondi. Morale, gli avevo fatto il video, l'ho messo su YouTube, mi ha detto che se non lo toglievo mi denunciava. Io non so, già capita che l'altra volta giù dove stai dicendo nel campo, coso a Lucariello, l'ultico, quello che c'è al corso, si lì si è rotto l'aereo che c'ha la turbina e ha buttato 15.000 euro di aereo. Allora, ma quelle turbine le hai viste? Cioè, micidiale, fanno lo stesso rumore? poi quando le spacchi le turbine ti rimane proprio, sembra un barattolo che si incendia, un barattolo di vernice gaggato, e portano una barca di soldi. Beh, Lucariello è bravo, Lucariello, che non è Lucariello, è... non mi ricordo, Perella, non è Lucariello, Perella, se non sbaglio. E comunque, quindi conosce anche Frenghi. Sto dicendo che, vabbè, io sono qui in Sicilia, giustamente a fare amicizia, a conoscere ci vuole un po', perché ci sta per andando. Allora lui dice, rotta l'ala, in poche parole dice, rotto, e a parte che quelle turbine lì usi lo stesso prodotto che si usano per i miei vieni, Ti fanno a cherosene? Guarda, esattamente come va l'aereo normale, ma il concetto, guarda, è uguale, è lo stesso. Tu devi vedere, c'era uno che aveva l'MD-339 a panca, quello delle frecce tricolori, tu li senti, li vedi passare, sembravano uguali, perfetti, anche il rumore. Allora, quello che mi si è rotto faceva 200 km orari, effettivo. Quello che hanno portato l'altra volta a Piazza della Torre, e l'imitazione è lo stesso uguale identico al Tornado, vero, e quello fa 400 km orari. Comunque, il giorno 6, perché il 5 la fanno giù a Sassari, dove c'è il campo di volo, e il giorno 6 lo fanno a Olbia, dove c'è il vecchio aeroporto che era Olbia, e lì fanno volare i jet. Parodio, prima non sai dove li facevamo volare prima che ci fosse il campo, che ancora si può andare lì a fare delle prove liberamente. Zona San Giovanni alla fine della pista di volo di Fertilia. Tanto è vero che più di una volta è arrivato alla polizia aeroportuale per dire che stavamo disturbando con i radiocomandi il radar di terra e quindi ti facevano cambiare le frequenze col quarzo, capito? Eh sì, ma adesso non si usano più quelle radio lì, adesso ci sono le nuove, che io me la sto prendendo e me la sto pagando piano piano perché costicchia, costa intorno ai 590 euro. E vanno a 2,4 e non danno interferenza da nessuno, quindi si possono usare senza problemi. Guarda che tipo di radio è, perché io ne ho una qua, credimi, usata 3 volte. E me ne voglio liberare, ma la vedi, poi te lo dirà anche Sergio, l'ho comprata da lui, se l'hai già presa però no. E se era lui, dimmi. Aspetta, la devo cercare, a dirti la verità non me lo ricordo neanche, se mi dai 2 secondi te lo dico. No, ma non c'è problema. Allora, gli altri, se no, insomma, facciamo aspettare, girate con lui, dopo che già male prendiamo voi, dai. Va, Leoncino. Leoncino, sì, sì. Accudire, tutti in aereo siamo. Beh, dimmi, fatto quello che vuoi. Ah, cosa Giuseppe? E si sta facendo con quell'antenna, secondo te? Non l'ho fatto. Sono levata di più e ho messo la gaffa di sotto, ne ho messo solo una di gaffa, capito? Adesso l'ho procurato il trapano, la punta sua e poi ci mettiamo il palo. Mauro. Io non l'avevo sentito, non sapevo che era rimpiazzata. Mi stavo in modo da poco fa con lui, forse lì va bene almeno. Ma d'accordo, c'è ancora il Santiago Novo, non è come la Gran Plena che ascolta, balla. Mauro, ci sei? Dimmi. Sono fuori frequenza un attimo, perché non mi sono reso conto, no? Ok, allora, Optic 6. Questa me lo guardo un attimo. Allora si scrive Optic, come lo sto pronunciando? Optic 6. È una marca però. Marca? Aspetta che te lo no. Trovato. È quello che va per la maggiore, andava per la maggiore perché puoi pilotare anche gli elicotteri con questo. Che la mia C24 della Intec. E la Intec. Che cosa? Che non Intec, Intec. Cosa lo guardo? Perché l'ho rimesso sotto il letto, un attimo. Sì, esattamente quello. E comunque qua lo stanno dando adesso 151,15. Come lo stanno dando? Come in euro? Sì, c'è il prezzo pieno 171,31, però questo è di Max Model, non lo so come è questo qua. Ed è possibile, perché io avevo pagato questo più un aereo, più tutta una serie di cose intorno ai 500 euro. Questo, aspetta che guardo sul sito di Sergio a vedere se ce l'ha ancora. Avevo preso un Super Tigre, se non mi ricordo da quanto era, forse era da 10. Aspetta un secondo, devo andare sul sito di Sergio. Ma cosa, tale Roberto Schiri lo conosci? Sì, buono, guarda, mi sono presentato meno male con quasi tutti, ma è da... non è che me li ricordo bene bene tutti quanti, capito? Anni? Sì, perché tu in breve cosa fai? Hai esclusivamente una trasmittente che è il telecomando e poi una ricevente che è una specie di pacchetto dove tu metti tutti quanti i vari servi che ti servono per far funzionare i flap, l'accelerazione, i piani di coda e tutte queste cose qua. Chiaramente questo lo puoi fare anche negli elicotteri, quindi puoi settare tutto in base al telecomando che hai, capito? Ma poi questi telecomandi sono ipertecnologici, nel senso che gli puoi dare dei settaggi, dei trimmer particolari, tu immaginati che hai in memoria, questo qua se non sbaglio dovrebbe avere una decina di aerei diversi, di mezzi diversi, quindi schiacci un pulsante e ti dà il settaggio dell'elicottero che gli hai fatto, ne schiacci un altro e ti dà quello dell'Aliante, poi quello di quella motore, cioè è un po' particolare. Automatico. Assolutamente sì, è un po' come un mixer, hai presente mixer che tu gli dai i volumi audio e dopodiché li registri, schiacci un pulsante e si settano da solo di colpo, questo qua è uguale. Vabbè, quando tutti sono stessa frequenza. Polytech Optic 6 lo sta dando 169 euro. Lo sta vendendo a 169 euro. Cappa Roger, no, io mi sto pigliando, che meno male sono quelli che vanno dalla maggiore, mi sto prendendo il Futaba F10, F10, sì. Ma te lo sto prendendo da lui? Lo sto pigliando da lui. Guarda, Sergio è una bravissima persona, però logicamente è un commerciante, quindi ti dico, fatti in giro anche su altri siti. Tipo, prova da Marcello Lozzieri. Guarda, i prezzi di questo radiocomando sono questi, perché se tu vai su Jonathan, che in Italia c'ha 3 o 4 negozi, e guardi il prezzo, e siamo lì. Dentro il prezzo è quello. Lo conosco perfettamente Jonathan, se tu mi dici che il prezzo è lo stesso di Jonathan, prendilo da Sergio, perché comunque ce l'hai lì e nel caso glielo cude a capo. Però lui a volte non si è reso conto che il mercato ormai è globale, che quindi la gente va a parlare di prezzi come giustamente hai fatto tu. Quindi nel momento in cui, come giustamente ho fatto io, tanto è vero che poi io l'ho comprato da lui. Però ti ripeto, è una bravissima persona, però è un commerciante, quindi di conseguenza fa i suoi interessi. Se tu mi stai dicendo che è uguale al prezzo di Jonathan, prendilo da lui. Sì, meno male è questo, perché questo è il Futaba F10 CG, quello che giù ce l'hanno quasi tutti, ed è un radiocomando, e dopo le 12:20 ci sono i ragazzi, se li hanno pigliati fuori dalla Cina, li paghi, cioè i cerchi te li trovi a pagare molto di meno di quello che vengono loro. Sì, ma ti ripeto, avere una persona a cui rivolgersi nel momento in cui c'è un problema. Tu guarda, anch'io, vedi, adesso mi sono trovato con un alimentatore guasto e piuttosto che spedirlo, perché per tutte le rotture di palle che poi ci sono, preferisco farmelo aggiustare qua e ciccia. Ma vabbè, io ho preso da Marcello, ho preso l'aliante e l'elicottero e altre cosettine le ho preso da lui. Marcello è in gamba, nel senso che uno di quelli, guarda, lo conosco poco, però come forma è un'ottima persona, soprattutto per quanto riguarda il carburante. Ma guarda, a me nell'Aliante ero un po' posteggiato senza usarlo, dopo in poche parole andavo a accelerare perché sono stati i comandi da destra a sinistra, il gas, sono andato a usarlo e si spegneva. In poche parole sono salito da Marcello, me l'ho guardato, mi ha cambiato il regolatore dei giri. in poche parole, dopo un mercoledì anni che l'avevo preso, me l'ha cambiato, sono andato a pagare, l'ho messo, fregatelo, lascia stare, non ti preoccupare di nulla. Ho detto, è una persona davvero in gamba, mentre invece vedi Sergio, quello lì non ce l'ha. Sergio, entri per comprare una cosa e ne esci con due, e a volte pure sbagliate. Non ho venuto all'inizio un aereo, un elicottero, con tutta l'acqua, che me l'aveva guardato un po' il povero Arma, che adesso, vabbè, è morto, non c'è più, che era un cranio sui moduli elettrici. Infatti dopo mi aveva detto di andare al Marcello e sto comprando così tutta la Marcello, adesso vabbè, il terreno mondo l'ho preso da lui, anche perché ce l'ha e Marcello non ce ne aveva. Se lo sto pagando piano piano, lo fa a dicembre, ma non lo ritiro. Vedi allora che poi alla fine torniamo a bomba sul fatto che le persone non cambiano, ma a prescindere, bravo bravo quanto vuoi, ma come si dice a Sassari, che hanno futti i parenti. Infatti adesso che dopo l'ho preso da lui, però un aereo che c'ha lui, che adesso perché ne ha uno, Marcello ne vuole 300 euro, invece uno che un aereo con il moto, perché lui è aviante, quindi lo lanci, da lui da Sergio lo sta dando 150 euro senza la batteria, senza una senza radiocomando. E questo è accessibile perché è stata una batteria che è stata ritirata, la radio ce l'ho e quindi spendo la metà. Se vedi l'aereo che ho io, proprio ho comprato, in scatola e messo sotto il letto, perché non sapevo neanche dove metterlo, non l'ho mai montato. Se un giorno ti devi acquistare un aereo, fra l'altro è dalla bassa, questo qua va decisamente bene per chi non è esattamente ai primordi, ma un attimino allo stadio un po' più del principiante, un po' avanzato, dai. Questo qua ti piacerebbe, bello bello davvero. In caso mai con noi non c'è problema, se vi è, non ci sono problemi. Cavalier Roger, riprendita da Gianni. Adesso il commerciante sta facendo il trucco. Un attimo, sai cos'è già? Ti dico la verità, io sono di quelli che è un po' come te, un po' come tutti quelli che hanno le passioni, gli piace coltivarle, e poi alla fine compra cose anche che non gli servono, le compra, non le apre perché sono un pignolo io, e a un certo punto le mette sotto il letto, le mette da una parte e dall'altra e sono nuove, intonse, e più non è tanto guadagnare quei soldi che guadagni quando lo vendi, perché poi alla fine lo svendi, però ti dà fastidio vederlo buttato da una parte così va a prendere polvere. Sono passioni belle a me. Guarda, a me mi incantano, quando li vedo volare mi incantano. Sono stato una mattina al sole cocente a vederli volare. Non me ne fregava nulla, c'erano tutti in Cagliari, di Iglesia, di Carbonia, insomma c'era un po' di gente che non mi sono andato io. Sono andato a vedere questi signori, li abbiamo visti tutta la mattina, li sono stati lì. E c'è anche quello, come si chiama? Consolidas. Sì, sto monitorando, ho registrato il Brexit, avanti. Sono sempre Gigi, c'è sta Albino Radio Paccano da Morole, che stavo in contatto con lui, ho detto prova a passare se ti ascoltano quelli di Sassari da lì, dalla stazione sua. Albino prova a vedere Gianni se l'ascolti. Albino prova a fare un passaggio se ti ascoltano qua a Sassari, Albino. Mino, qua c'è troppo QRM, eravamo sul 45 e arrivava chiaro, ero sul 45 e ho detto di provare a passare qua sul 10 se riuscivate ad ascoltarlo voi da Borone. No, guardare sul 45 facevo la prova, e non volete passare sul 10, ma sai vedete è rimasto sul 45. Alessio, tu pensi che davvero cambiando quei finali dovrebbe ritornare tutto a posto? Finali. Di quell'alimentatore. Cosa c'è? L'alimentatore non è in canale con i finali bruciati. Ciao Roger. Non l'hai provato a chiedere cosa ti prendono a cambiare i finali? No, l'ho portato da Alessio. Da Alessio Pomponio. Cosa ti ha detto? Infatti stavo chiedendo. Alessio, attenzione Alessio. No, che vanno cambiati i finali, il finale non costa molto di per sé, è che questi bastardi della Proxel hanno cancellato completamente la sigla del finale, capito? Lo fanno solo loro, non si preoccupare, lo fanno che altri. No, ho fatto una ricerca su internet, credo di averli trovati. Tra l'altro non sono così facili da trovare qui in negozio, comunque. E per quelli bisogna devi andare da loro, o l'AGBC, o da Corvo, o Fusaro, o 21, e loro guardano se riescono a trovarti quelli che vanno bene. Senti, o prendono quelli della corrispondenza, o boh. Perché se no è un problema, poi tu immaginati, l'ho pagato 105 euro e un 45 ampere, comprato un mese fa e non glielo voglio spedire perché a memoria dico dell'esperienza che ha fatto Gianni, spenderei solamente in soldi per spedirlo, per farmelo rispedire indietro, a questo punto lo fa in gula, come farlo gestare qua e anche se non c'è garanzia, capito? Ah, si è andato, cioè si è andato, tu l'hai chiamato. Guarda, ho l'esperienza di Gianni Doppio Rum, che ha avuto lo stesso coso, e non dico che me l'ha minacciato perché ho letto i forum e sono tutti quanti scontenti di questi qua, perché o ti va bene allora ti dura una vita, oppure ti va male e loro non avendo il centro assistenza a questo lo rivedi dopo 3 mesi, capito? Capito, guarda io ne ho preso uno, adesso però non me ne ricordo che l'ho preso. Comunque l'ho preso in internet e sto funzionando benissimo, senza problemi. Cioè la Proxel? Esattamente, funziona benissimo. La sigla ce l'hai? Lo uso io, 6045NFA. Ecco, allora ti auguro che non faccia la stessa fine, però me l'ha detto Gianni esattamente come te lo sto dicendo io, quindi non vorrei finacciartelo, però... è il 6045, che è 45 ampere, quello con le due finestrelle e l'accendisigari anche ha. E dopodiché c'ha in frontale c'ha anche gli attacchi per i 10 ampere. Sì, sta funzionando, guarda, benissimo, problemi non ne sta dando. Lo sappi che io parlavo così fino a 3 giorni fa, quando non si sa per quale motivo era in ricezione, quindi neanche in trasmissione, in ricezione si è spento tutto. Io pensavo che fosse andato in blocco, tenuto spento, come dice il manuale, per 3 minuti, 4 minuti, e non ha ripreso. Morale, poi l'ho portato ad Alessio, scaldava un solo finale, ed si è bruciato o due o un finale. Boh, adesso li cambiamo tutti, intanto portano una miseria. E vabbè, io prima avrei chiamato a loro, dopodiché se non trovi disponibilità da parte loro, te li cambi tutti. A parte ti ripeto l'esperienza di Gianni, se tu provi a cercare Proxel Guasto 6045 NFA, hai tutta una serie di persone che si sono trovate male nel momento in cui l'hanno dovuto spedire. Quelli là o escono bene come il tuo e allora non ti darà mai problemi perché è fatto bene, oppure quelli fatti male è inutile che lo spedisci a loro perché spendi 15 euro quantomeno per spedirtelo, poi loro vogliono che tu gli rispedisca soldi per la spedizione, un casino, e soprattutto se lo tengono una vita. No, la spedizione secondo me me la vai tu, perché io sono garanzia e ti arrangi. Ragione, però la garanzia è presso i loro negozi, cioè loro ti dicono io te lo metto a posto, però me lo devi far avere tu il pezzo, diciamo. Capito. No, vabbè, finora sta andando bene, sta funzionando bene, non mi posso lamentare. Ho preso la tecnocomunicazione comunque. Ok, non mi ricordo, forse l'ho preso anche lì, non me ne ricordo. Mi sembra che l'avevo visto su eBay, se non mi ricordo male. È possibile. Gianni, avanti. Ma è possibile, Mauro, che ti abbiamo visto da Bricoman con la macchina, o no? Ma guarda, io lavoro a questa bara, Non ho capito, che lavori? N1 senza bara. Perdonami, non ho copiato il passaggio, sei di nuovo un po' sotto, abbassa leggermente. Stavo dicendo, lavoro alla rete Sarbana, vita a Gesenu e guido un camion. No, negativo. Che cosa trattate? Non ho capito. Faccio io, la rete Sarbana Sassari, la Gesenu, l'azienda che fa la cosa della monnetta, là, io faccio organico. Niente, escono le 4, escono le 5, faccio il monte e la croce. Ah, quindi aspetta, lavori in barra pesante ma non hai l'apparato in barra pesante. Ma no, qualche volta me l'attacco di cosa, come si chiama, con la base magnetica. Oh, perdonami, allora, siccome c'è un camionista che ha il tuo stesso nominativo, nel senso il tuo stesso nome, e ha proprio il cartello sopra il coso, come scritto Mauro, Mauretta, se non mi ricordo, però pensavo fossi tu, capito? Stai dicendo, una lavora col cassone, c'hanno c'è il cassone sopra, il camion è bianco, Bravo, bravo. Lavora da Aspi Sarda e si chiama Mauro e ci conosciamo con lui. Scappa Roger, quello lì. Quello lì, collega di Cicino Vulcano. Chi è rimasto in ruota? Nessuno. Cattolica, dai, Mauro, 5 minuti di bianco per me che sto finendo di saldare una cosa. Mi riprendo fra un attimo. Ok, non c'è problema, io sono qua. Buonasera, Giulio Volla da questa parte, chi è? Da questa parte. Ciao Mauro, vicino di casa, ho capito. Solo? C'è Antonio, poi c'è l'altra roba, ci sono spostati nel 45. Infatti adesso bisogna mi prendo l'altra radio, perché sto usando quello normale e mi attacco l'altra radio adesso. Ma non ce l'hai tu il 45, perché? Però sull'altro sì. Allora cambia. Adesso devo scendere in macchina, attaccarlo e piattarmelo. Ho capito. Quello che stai usando adesso cos'è? Che apparecchio è? 3 alla 48. Ho capito, 3 alla 48 è un buon apparecchio. Va benissimo, funzionano molto bene quelli. Sono all'avanguardia in questo momento. Peccato che hanno pochi canali. Adesso me la faccio attaccare da mio figlio e lo faccio portare su. Ho capito, sì. Vabbè, là. Cioè, tutto lo si può avere chiaramente. Quando si ha un tipo di baracchino, poi i canali sono quelli che sono, e allora non è possibile. Anche se si possono fare i canali alti e i canali bassi, si possono fare aggiungendo schede, ma allora si comincia a spendere eccetera eccetera, tanto vale allora comprarne uno serio già dall'inizio con tanti canali e con di un certo prestigio, ma va bene così, fregatene. E l'attimo non ti stavo ascoltando perché mi stavo parlando un attimo con mia moglie. No, niente, questo va bene, anche l'altro che c'è funziona perfettamente, benissimo. Chi è che si sente male? Avanti. Questo si sente male. Avanti, chi è che si sente male? Vabbè, fatta ammazzare. Vabbè, se vuoi andare nel 45, se devi scendere a prendere l'altro, scendi, io un problema non ne ho, guarda. Anch'io posso cambiare, perché quello che sono usando adesso è con altro 45 non ce l'ha. Questo è solamente un 23 canali. Ma già ne ho altri apparecchi, io vado nelle frequenze, tutte le frequenze, non è un problema per me. Ah, è andato mio figlio a prendermela e adesso me la porta su. Ho capito, sì. E vabbè, tanto tutto sommato, i canali che ci usano sono sempre questi. Il 10, 5, qualche volta il 20, il 21, il 12, ma poi più in là non è che si va molto spesso. Non fa niente, andiamo bene lo stesso, va. Sì, è bene, i canali sono sempre subito, non è che cambiano più di tanto. Appunto, va benissimo. Cioè siamo pochi e dunque i canali già ci bastano. Anche se è un baracchino di 40 canali va bene lo stesso. Lo so. Ma quello la funzionava meglio. Indubbiamente. Magari con l'altro anche la banda laterale, sicuramente, così. Ma è sempre la 48, ma cambia qualcosa. Ah, ho capito, 48 quello plus. Quello con più canali, là. Quello con più canali, va bene, no, vanno bene. Là un 48, guarda, sono degli apparecchi. Diciamo che al momento, in questa frequenza, sono quelli che vanno alla maggiore. Direi, a parte altre apparecchiature più sofisticate, ma questi, se consideri la funzionalità dell'apparecchio e il costo, vanno più che bene, va più che bene in tutti i modi. Sì, no, vanno benissimo, la verità, non mi potete lamentare. Il microfono cosa stai usando adesso? Un MB più 5 o più 4, cos'è? 4. No, io sto usando un autocostruito, un microfono in legno sto usando. va bene. Comunque, dai, ci bene, io la voglia. Un attimo di piatto che scendo la tappia noi da raso, dai. Ok, va bene, va. Attenzione, dici. Attenzione, dici. Attenzione, dici. Attenzione, dici, prego. Oh, sai che sono alzato e non ho bevuto tutto, adesso sono un po' collassato. Ah, sono qui che ti faccia dire la pressione. Via. Ero qui, c'ha tutti i capelli dritti. Mi sento tutto aggiustato. Ma volevo appena del latte, il cappuccino, quindi l'ha messo. Capito? Io credo che l'ho bevuto tutto. Quello gli fa salire la pressione, per quello ti senti tutta agitata. Sì, se non me le fa drizzare. E vabbè, l'interessante è che faccia drizzare il resto. Parodio, perché ne ho tagliato tutto stamattina. Vabbè, e voi siete tagliati? Non mi accorto neanche a Mauro stamattina, vabbè, niente, non ho detto nulla. Non totalmente. Positivo, cosa ho fatto così? Come mai questa decisione? Ma che scommessa hai perso? Ma sai che cosa? Sì, l'hai data a te. E va bene, chiediamo l'erba. E come mai questa decisione? Dove mi hanno rinfrescato, ogni anno del taglio, una volta all'anno del taglio, e poi lascio le trecce. È vero, ho tagliato stamattina, ma le è venuta e c'è l'erba, è vero, ho tagliato l'erba. Ho tagliato il pasto prima dell'erba. Magari. Io vabbè, ma non tagliare totalmente, lascia che si sente almeno magari fatti corti, sì, ma tagliare del tutto, boh. Sembra di un'altra persona sicuramente, perché io se la parte non ti ho mai visto. Ogni anno, una volta all'anno le taglio, a volte non fanno in tempo perché dopo un paio di settimane ci devo già nuovamente, due settimane ci sono nuove. Sì, magari c'è un pizzo di tanto. No, io il pizzetto sono già un bel po', una volta me lo taglio così tutto perché ho sbagliato, non la metà praticamente mi ha tagliato un pezzo di pizzetto, allora per non lasciarlo così ho preso e mi sono tagliato le frutte. Anzi, non mi riconosceva più nessuno. Ritiro, dai. Devo fare un lavoretto, mi sa che me lo faccio giù in garage, lo sa. Vado giù e me lo faccio in garage. Fare un lavoretto, devo fare una cosa. Me lo faccio giù, gira in garage. Ma poi non mi freddo. Del vulcano oggi mi ho messo. Quello che avete fatto per la cena? Sì, oggi sì, per il pranzo. E vabbè, se facciamo nuovamente da capo quest'anno, adesso il primo raduno faremo il secondo raduno. Ma non fate questa foto? E so perché va bene, va benissimo, va. Anche il fatto lì va benissimo, non l'abbiamo fatto l'anno scorso, adesso siamo stati troppo bene. A me è piaciuto come ci hanno fornito, come ci hanno passato, come ci hanno mettevano le... Come mangiare, dai, qua su, davanti, dei dati pazzi, quelle grigie, quei cosi, in sughero grandi, hai capito, davanti, con la castagnola, no, per noi mettersi lui o il coso nelle cose in sughero, dai, quei cosi in sughero grandi, e c'è tutta la grigliata del pe, orate, tutto misto, Vabbè, sono tipo vasche che usano da quelle parti, anche la carne la servono sempre con questi vasche di sughero. Basta, era un altro ottimo a mangiare. Che bello, qui va bene, quando c'è quel roba in abbondanza va bene, a me non si è accorto che l'estate che ti hanno detto a piccoli tetti, contatta la roba proprio, ne puoi prendere appena e basta. Dai, ora ultimo, sia il prosciutto, lo faccio adesso. E qui magari con piano di terra è roba del posto, è roba più saporita, ma è roba che appartiene al pastore, roba casereccia, è più buona. Qua adesso a Torino sono stato 2 giorni, ho mangiato il cinghiale in tutte le maniere, il cinghiale in tutte le maniere, ti dico che è roba buona veramente. Sono stato all'hotel Samovara, c'è ancora? Già a posto con gli antipassi, mannaggia la miseria, poi dall'antipassi alla diavola, sono di antipassi, quasi mangiato solo di quella roba e poi proprio appena appena la roba, perché pure troppo l'antipasto era troppo già, perché c'era di terra, di capo, si metteva quei fasoli davanti e si invitava a mangiare, capito? E allora ero già, infatti ho assaggiato, ho mangiato, ah, c'erano da fiori fare e c'erano veramente da fiori, poi c'era questa fede ai cose di mare, la ai cose di mare, come si chiama, la ai cose di mare, quella fregola, la fregola fatta a tipo risotto, come chiamano la fregola, la frutti di mare. Tutto è tornare indietro e pieni così, sia di bere sia di mangiare, per andare in ritroppo in macchina. Oggi no, oggi ho stato bene perché ho mangiato la concetta, un bel paio di concetti della Bosimo, di Bosimo veramente. E ho mangiato, non ho esagerato, neanche con la più, ho mangiato 4-5, non ho esagerato, perché mi sembra, no, ti metteva il vasto anche della... pago 13 euro e mangio una piatto composto con calamari, frutti di mare, insalata di terra, primo, dove già c'è la fucina, la frutta, insalata, e a volte non ce la facciamo mangiare. Quasi quasi non me l'hai conosciuto. perché quello di Piero Lumalcone fatto in Sicilia, fatto nel 2004 quello lì, fatto nel 2004, forse tu a me quello non me l'hai conosciuto, l'avevo già dato a Mauro io, capito, mi hai conosciuto gli altri, non c'erano quello, tu non me l'hai conosciuto, io l'ho capito. No, io me lo ricordo quando era accanto a cosa, come si chiama? Andiamo, andiamo qui. Alcune lo conosciuto. Mi ricordo che San Ferro che mi ha venuto tu a lui. È positivo, dai, è positivo. No, perché io l'ho tenuto un po'. Io, allora, la centralina nel 2000, aspetta un attimino, nel 2004-2005, nel 2006, nel 2006, due anni di garanzia, era superata la garanzia, nel 2006 si è bruciata la centralina, nel cavo attaccato c'avevo quel baracchino lì, quello, proprio quello, del 750, c'avevo quel baracchino lì, nel 2006, nel primo del 2006. Poi cosa è successo? Come mi ho ritirato la macchina, avevo tolto quel lineare lì, avevo messo 501 e quel baracchino lì l'avevo venduto a Mauro. Ma voglia gira bene, Augusto. Ma anche il mio gira bene, quello che c'ho io va molto bene. Lo fai partire il lineare, quello che c'ha Mauro, con pochi watt, lo fai partire il lineare, lo fa salire come le fa per un Marcone, micidiale, faceva salire a 520 watt, 750, 520, a 520 watt lo faceva salire quel lineare lì in camion, me lo ricordo ancora. Comando c'è bruciato la centralina. Positivo, poi l'avevo venduto e no, l'avevo venduto perché me l'avevo fatto quello nuovo da cosa? Da Roberto. Me l'ho fatto un nuovo da Roberto e l'avevo venduto a lui, a Mauro. Capito? Me l'ho fatto un altro nuovo, poi quello lì l'ho lavorato a Salvatore, me l'ho fatto ancora un altro nuovo e via. E così via. Cose che durano, vuol dire che sono fatte bene, non c'è niente da dire. Se non sono fatte bene, se ne vanno fuori allineamento, lo sai come, no? Ci sono gente che se ne attarate di nuovo perché se ne vanno fuori regolazione. Positivo, no? I molti ce l'ho. No, quello già è stato sempre così, dai. Quello ce l'aveva gemello, cosa, Gianni Avoltuio. Poi ci aveva fatto l'altro nuovo e niente, che cambia l'eco, dai, proprio quello che cambia l'eco adesso. Di solito c'è la Tommaso Civa, quei baracchini di come si chiama, di Lumalcone, lui si serve da Lumalcone, capito? C'è la Tommaso Civa, capito? E niente, quello l'aveva fatto Claudio Pitbull. Claudio Pitbull gli aveva fatto fare Tommaso, però ha tenuto poco perché poi si è comprato la barra nuova e si ha messo un baracchino normale e non interessa far mettere e me l'ho preso subito io al volo, era nuovo nuovo quando l'ho preso, appena fatto. Positivo, dai, positivo, ecco, 500 euro quello lì avevo pagato, 500 quel baracchino lì. Se quasi chiuso ti sarebbe uscito. Positivo, ma ora che questo è quello napoletano con 3 watt e mezzo di portante, cambio. Quello mi hai fatto vedere stamattina. 3 watt e mezzo, capisci? Buono, buono, direi più che buono. Positivo è Caparogero, li abbiamo aumentato appena di fatti, cambio. Positivo è Caparogero, questo è quello per la regolazione della voce, capito? E dicendo che può aumentare e diminuire la bomba. Già va bene anche questo. Se stai dietro a queste cose, non ce n'è. Sì, adesso l'abbiamo cambiato la modulazione. Abbiamo tirato il pomello al contrario. Così a metà, siamo a metà corsa, così vedi. Buono, buono. Così è tutto mascolo e ruspante, vedi la voce più corposa e più mascola, cammino. Sì, è detta più forte, sì. Sì, buono. No, è anche la modulazione, ti sto dire che... Non ho capito, già, non ho capito cosa hai detto. Le altre modulazioni, ecco, scompare. Girando scompare, ecco. Io lo sento, oggi siamo metà corsa, vedi, cambio. Allora adesso c'è. Allora, adesso è tutto al minimo di tonalità di voce, al minimo minimo. No, adesso c'è. Ma poco fa non l'ho sentito, sono io che magari ho sbagliato, ma mi è sembrato che non ci fosse. No, adesso. Adesso è proprio tutto più tutto aperto, cambio. Va benissimo. Luigi, come si chiama quel ristorante dove siete andati voi? Cupole, le cupole. Dov'è? Moro è sulla 131 proprio, è al chilometro mi pare 75, c'è il cartello 75, chilometro 75, 175 mi pare, non 75, 75, no 175. Io ho capito, niente, però sto guardando via internet, se ci hanno riuscito. C'è le cupole, c'è. Anche Sarcaccia è un buon ristorante, a tempo di Sarcaccia io ho mangiato, abbiamo fatto la festa dei suci quando hanno fatto la notte d'argento e abbiamo voluto fare un regalo così, ne abbiamo fatto una sorpresa e ne abbiamo fatto il pranzo del ristorante, ma abbiamo mangiato veramente bene, ce l'ho portato il pesce con frappè e tutto quanto, molto buono anche la cucina. Abbiamo scelto noi quello che volevamo, proprio c'è come fare il ristorante, no? Quando arrivi io voglio questo, voglio l'altro, non è che c'è un bel predisposto e cosa, no, quello che voleva per me. Sì, metti a Francisco, adesso entro e vediamo cosa dico. Oh Gianni, adesso aspetta che te ne provo un altro. Prova. Mi ha scelto secondo solo che sto andando in bamba. Positivo, ti aspetto già. Prova una, prova l'altra. Allora, questo sono sempre con tre mani. pronto MBM, cambio. Siamo accorti. K del Roger, ho tutto quanto in gestione da buon pugno per farmi, avessimo messo a posto il microfono normale per la stazione base. Adesso mi tocca usare quello perché poi distacco questo CMBM e ci metto quello, cambio. Va bene, vai, va bene che bene, cambio. K del Roger, ai. Oggi Gianni. Dice che vogliamo lasciare la scarpa sola, perché non si è venuta a prendere la casa. Trovo anche lei. Ah, perché, sai cosa è successo già? Non avevo il trapano, perché con la punta da 14, solo che abbiamo messo una staffa e ci siamo arrangiati così, capito, per adesso, poi domani c'è spazio, me la dai con la staffa, capito? Ma più la bella la lunghezza che ci vuole, poi il Fabrizio ha detto che te l'avrebbe fatta subito giù dalle staffe tranquille, tutto tu vai in Brescia, Fabrizio ti avrebbe fatto lavoro come si deve, te lo faceva bene al turno, tutto quanto come si deve. Vabbè, comunque l'ho piantata e ho visto che sta rendendo bene, grazie a Dio. Solo che devo mettere il palo già, devo mettere il palo di 3 metri, devo prendere un palo giù da Bricome che costa 25 euro con telescopico e glielo devo piazzare, capito? Ah, prenditi quello di Marcinto, cavolo, vai da Marcinto e paghi molto meno. Tiene un palo come si deve. Ma quanto me lo fa pagare quel palo Marcinto? Ma sta andare a chiedere, non lo so come ha preso di me, vero? Posso? Da Marcinto c'è... Ma non penso molto, l'ho preso anche io da Marcinto qualcosa, non ti credere molto Giuseppe. Sulle 15 euro, no? A me intanto me ne passano 3 metri di palo mi passano. Ma che palo ti serve a te? Da quanto ti serve questo palo? Il palo mi serve quello telescopico, da un pollice e mezzo, capito? Io. Ma questo sta facendo qualche straniero, questo fa qualche straniero, ma il mio è noi diciamo oh, non lo so perché Detention Freeze Italy from Sardinia chiama cambio. C'è una resistenza da 180 ohm. Non ho provato nel... Ma che bello è con questo microfono già? Più bella cavolo, aspetta che vengo una cosa sul computer, Risa la notte ha portato un torso, ma il resto ha tentato un omicidio. Vada, vada. Sociali così che sono figli abbandonati da quando erano piccoli e allora hanno ricevuto un'educazione un po' Italia, allora succede che è quello che succede con i coltivi e con le armi tanto in tanto. Gentaglia già, gentaglia e basta. E uno che girava il conto di tasca non penso sia una brava persona, sì che capita così magari che ti rompono le scatole e ti altri per difese, è un conto, ma quando uno girava il conto di giara con la predisposizione a fare del male. Sto dicendo, quello è solo gentaglia e basta, niente di più, perciò solo che sono pericolosi, capito? Gente pericolosa perché devi anche stare molto ma molto attento con che ha a che fare. Ma vabbè, lasciamoli fare, che si ammazzino fra di loro e lasciano in pace le persone serie. Allora io mi ricordo che questa Linco mi ha raccontato che il figlio gli ha chiesto: papà, ci possiamo andare con mio cugino in pizzeria stanotte? Ha 17 anni, mi ha bello mandata con cugino, cos'è? Ne è tornato tutto buio a casa, non è passato una greffa dei ragazzi e li hanno pestati a morte senza motivo, capito? Era fortunato di gonfia a casa. Ed è già fortunato che è rientrato a casa, perché se l'hanno picchiato in tanti, che puoi immaginare. Oh yeah, vabbè, lasciamo perdere, va, mai ci vedono. Non ce ne frega niente di questa gente qua, già, siamo di un'altra categoria noi. Non so, non so che c'è un'altra categoria, però viviamo sempre nello stesso mondo. Diciamo che dobbiamo anche riservarci da queste persone qua. Beh certo, certamente bisogna fare attenzione, in effetti è così. Vabbè. Sì, sto venendo. Stanno chiamando laggiù, un attimo già che scendo giù, vediamo cosa vogliono. Riprendi. Ti vogliono far modulare. le donne. Avanti. Non ho visto il telegiornale io alle 3:30, alle 2. Stavo pranzando, l'ho visto a Videolina già. Ho fatto vedere tutta la Videolina, il bar lì dove hanno fatto. Successo quella fare, l'ho fatto vedere la Videolina già. L'ho visto all'ora di pranzo. Ho girato un attimo la Videolina e l'ho fatto vedere la Videolina che ho fatto qua. No, io non ho guardato la di pranzo la Videolina, ma stavo guardando quel programma che fanno a Rete 4, dove c'è tutta la vegetazione, gli animali, eccetera, le cose che mi piace, le culture dei paesi, la cucina, tutte queste cose qua. Stavo guardando quel programma lì. Quella che va in giro vuol dire la notte e come dice, come stava dicendo Gianni, uno che esce già col coltello, ma non è più nemmeno come quel, sai, si è sempre fatto, adesso saltando il pane in frasca, ti ricordi quel ragazzo che si chiamava Carlo Giuliani, a cui hanno dedicato una piazza, giù mai dopo ne facevano un martire per la tolsezza che c'era stata a Genova, mi sembra nel 2000, nel 2009 o il 2001, comunque, parecchi anni fa. Ora, quello che stava tirando le tintore al vigile, al coso, al carabiniere, che poi il carabiniere gli ha sparato in testa. Ora dico, è proprio un Mefisto è quel cappuccio dove ci vendono solamente gli occhi e la bocca. Dico, ma se tu vuoi uscire di casa per fare una manifestazione pacifica, ma perché ti stai portando quella cosa? Evidentemente è tutta l'intenzione di delinquere. Ma non lì però, il carabiniere si è portato lì, c'è anche Gelfano mio figlio. Guarda, medaglia non mi avrei dato manco per sogno, avrei condannato a lui, non al carabiniere. Quel ragazzo sta male veramente adesso, sta male veramente, perché ti dico una cosa, quel ragazzo era un ragazzo ausiliare, effettivo, e tu un ragazzo del genere, buttare in mezzo alla, alla cosa, con, perché non aveva esperienza, quello non aveva neanche un anno di servizio quel ragazzo, se lo ricordate, era un ragazzo ausiliario, non aveva neanche un anno di servizio, e aveva, mi pare, 6 mesi di servizio, era 6 mesi che era in servizio questo ragazzo, che stava facendo il carabiniere, trascorso, 3 mesi, era 3 mesi che lui stava facendo servizio. Immaginare l'esperienza che c'è, va a buttarlo in mezzo, a quella, e poi al ragazzo. Sì, a prescindere, io comunque fossi stato nel carabiniere l'avrei scaricata quella pistola, furia di pistolettare persone, ma pagando mai, uno viene a chiedermi, cioè davvero hanno fatto un martire di un assassino, perché se quelle tintore fosse riuscita a lanciarlo, al carabiniere gli avrebbe sfondato la testa, dico, e allora? È una vergogna, ma solo in Italia facciamo queste cagate di dedicare piazze ad assassini, non solo, gli hanno dedicato anche un'aula del Parlamento, una cosa vergognosa. So, lì è... quello è un ragazzo, quello ha cercato di difendere, tutto è... cavolo, quello era da dentro la camionetta, io me lo ricordo per tutto quel particolare, io me lo ricordo. E... dicendo lì alla... ma perché c'era già... stava per finire le... No, era già andato Pierpaolo, o era ancora in servizio, non lo ricordo, ma non c'è quel fatto lì. Era, mi pare che era ancora in servizio. Ma mi senti come stanno arrivando qui? Io risento, Quasi io ho fatto l'ausiliario carabiniere, però ho fatto solo l'ausiliario e basta. Ah, quindi di famiglia, hai fatto l'ausiliario, ma tuo figlio l'ha fatto come... come ausiliario oppure come effettivo? Ce l'ha fatto anche lui, effettivo non ce l'ha fatto. Era volta, lui era il nucleo, decimo nucleo dei costerizi di... Scusate, ma già, picchi negativi io. Sto controllando perché, aspetta che si pieghi. C'è la cosa del computer che si toglie il piano che è spray, no, con quello del computer. E c'è una stazione, trovo quello che usa anche il computer, provo a vedere che guarda adesso. Capolavoro che ha fatto. Beh, c'è quella, c'è la scusa.